si ripete mai. Gigi dal postino. Ma è bello ripeterlo. Dal Cos'è? Ma novella! Lento violento man. Versione? Demo scemo. Sono Gigi D'Agostino. E questo è il mio cammino. Sì, l'ho letto sui giornali. M2O. Cosa stiamo ascoltando, fratello? Semplicemente. Artista? Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Versione? Legna Mix. Minutaggio? Non pervenuto. Preciso. Sola possibilità di salvarti la vita. Rivelarci l'identità o il luogo in cui si trova il nome in codice V. Sei disposta a collaborare? Il futuro, come non l'avete mai visto. È giunta l'ora che tu smetta di aver paura. Sono pronta. Dai creatori della trilogia di Matrix, V per Vendetta, da marzo al cinema. Chiama subito l'800-02-4488 con M2O. Puoi ricevere il poster del film nella versione Limited Edition. La compilation dell'isola più trendy del mondo.

cosa stiamo ascoltando, fratello? The Final Countdown, il folclorista. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Mentale. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Io gioco con la musica. Ginnastica mentale. Mi diverto con la musica. Ginnastica mentale. Gioco, gioco con la musica. Gioco, gioco con la musica. Ginnastica mentale. Gioco eternamente. Il cammino di Gigi D'Agostino. I can feel in my heart that you need me tonight. You'll be only the one, you are my baby. I can feel in my heart that you need me tonight. You'll be only the one, you are my baby. Bello, bello, bello questo qua, bello, mi piace, cos'è? The Only One. Artista. Noise of Love. Celestino Disco Bar. Momento creativo. Passaggio all'aperitivo. Passaggio all'aperitivo. Momento creativo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Assaggio l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... Sposa, domani ti regalerò una rosa. Geloso d'un compagno non voluto, temuto. Stesa, caldissima per quell'estate accesa. Fanatica per duri segni al vento, io tento, tanto, quell'orso che ti alita accanto, sudato che farebbe schifo un piede, non vede, dorme, tapino non le tocca le tue forme, eppure ardimentosa la sua mano. Bicchier di vino, partito per un viaggio mica arzillo, già brillo, certo, perché io non gioco mai a viso aperto, tremendo il mio rapporto con il sesso, che fesso, piango, paludi di parole fatte fanno, mi muovo come anguilla nella sabbia.